Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Sappiamo quanto sia impegnativo anche dal punto di vista economico gestire il lieto evento dell'arrivo di un figlio. Io stamattina chiaramente potrò fornire solo testimonianze indirette, non dirette, ma insomma ho tante amiche con bambini, una sorella con due bambini piccoli, sono una fantastica zia naturalmente, per cui qualche cosina la posso raccontare anch'io. I costi da sostenere per un bambino nel primo anno di vita possono variare da 6.350 euro a 13.844, perché delle cifre così precise sono state fornite da uno studio dell'Osservatorio Nazionale Federe Consumatori. È un momento di grande felicità che in tante famiglie però deve scontrarsi anche con le esigenze della quotidianità, la crisi, i problemi sul lavoro, la difficoltà a risparmiare. Oggi speriamo però di dare qualche buona notizia ai genitori che ci ascoltano e soprattutto a coloro che lo sono diventati da poco. 300 euro al mese per 6 mesi concessi alle mamme che tornano a lavorare lasciando però i propri figli all'asilo nido o alle cure della babysitter entro la data del primo compleanno. Questa è la formula individuata dalla nuova versione del bonus bebè. Come si potrà accedere a questo finanziamento? Attraverso un click day, un po' come quello che si utilizza per regolarizzare i lavoratori appunto extracomunitari periodicamente nel nostro paese, inviando le domande dunque esclusivamente in via telematica. La precedenza per ottenere questo finanziamento andrà a chi ha un valore più basso per l'ISEE, l'indice della ricchezza delle famiglie calcolato in base al reddito, alle proprietà e al denaro sul conto corrente. Però ci sono anche altre notizie che riguardano tutti gli altri genitori, qualche buona notizia che arriva dalle cifre delle nuove detrazioni fiscali previste per i figli a carico che nel 2013 aumentano in maniera significativa. Allora noi oggi vogliamo fare il punto su tutte queste novità raccogliendo come sempre le vostre testimonianze, i vostri racconti e le vostre domande, anche se c'è da dire che con i dati sulla disoccupazione giovanile che abbiamo registrato ieri, qui tra un po' i bonus a sostegno dei figli dovranno allargare notevolmente i loro orizzonti. Comunque oggi parleremo appunto di tutto il resto con due ospiti, Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Presidente, buongiorno, benvenuto e buon anno. Buongiorno a voi, auguri a tutti. Io mi sento autorizzata fino alla fine di gennaio, come faccio tutti gli anni, ancora ad augurare un buon anno. E poi abbiamo collegato telefonicamente anche Dino Giorgetti, responsabile settore ISE per il CAF CISL. Dottor Giornetti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci sente, grazie. Allora, 800 24 00 24, come sempre il numero verde per i vostri interventi in diretta. Scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e anche su Facebook. Per la verità, ieri quando abbiamo anticipato il tema su Facebook avete commentato in tanti la circostanza appunto dell'erogazione della nuova formula del bonus bebè, che per la verità anche i governi passati hanno riconosciuto e distribuito, però con formule sempre diverse. Quest'anno ci si cimenta anche con un'altra modalità. Poi vi leggerò tutti i commenti che sono arrivati su Facebook ieri. Potete naturalmente correrci dietro anche retweetando i nostri commenti appunto su Twitter. Salvadanaio, siamo su @salvadanaio24. Faccio sempre un po' di confusione con tutti questi indirizzi che vi devo dare. Comunque spero di essere stata chiara anche quest'oggi. Prima di entrare nel merito dei sostegni finanziari per le famiglie con figli a carico, andiamo però a raccontarvi la giornata di borsa. Mamma mia che gola stamattina, qua ricominciamo davvero con i malanni stagionali, però resistiamo stoicamente davanti al microfono. Allora abbiamo una buona giornata per la borsa, ma soprattutto per Piazza Affari, che segna adesso sul FTSE MIB più 1,11%, a Milano ancora una volta a correre quasi tutti, praticamente tutti i titoli del settore bancario che sostengono sensibilmente il listino, ma in questo momento le regine della seduta sono Telecom più 4,74%, Finmeccanica più 4,42%. Per Finmeccanica da mesi è perennemente aperto il dossier delle cessioni appunto e si parla di un'accelerazione per quello che riguarda la vendita di Ansaldo Energia, secondo quanto risulta questa mattina al Messaggero. E poi Telecom, come vi dicevo, bene, qua Da tempo si parla della cessione di Telecom Italia Media, quindi della 7. Vedremo se ci saranno novità in giornata da questo punto di vista. Poi le banche che corrono da qualche giorno, perché appunto è stato stabilito un alleggerimento dell'entrata in vigore dei parametri di Basilea 3, che erano molto rigidi per le banche europee, quindi questo impatto sarà più graduale per il sistema bancario europeo, e di questa circostanza ne beneficiano soprattutto i titoli bancari italiani, che viaggiavano ad avere in condizioni di forte sottovalutazione, almeno secondo molti operatori. Monte dei Paschi più 4,27% è il titolo che ne beneficia di più, Unicredit più 3, Banco Popolare più 3, Popolare dell'Emilia Romagna più 2,35%. Noi vi abbiamo detto che performance hanno le altre piazze europee, poco al di sopra della parità Parigi e Francoforte, Londra più 0,31%. La giornata, va ricordato, che era partita molto bene stamattina grazie ai risultati che sono stati comunicati da Alcoa e il gigante mondiale dell'alluminio, il colosso dell'alluminio, che ha appunto comunicato i suoi risultati ieri sera a mercati chiusi a Wall Street. Alcoa è la prima società che si presenta sul mercato appunto per inaugurare la stagione delle trimestrali. I dati sono stati piuttosto buoni e questo stamattina appunto ha incoraggiato anche gli acquisti sui mercati del vecchio continente. Euro su dollaro a 1,3072, spread fra BTP e Bund stamattina è partito a 277 punti base per poi scendere leggermente. Questo per quello che riguarda la borsa. Però noi andiamo al tema di oggi. Oggi parliamo di bambini e di famiglie con bambini. Sentiamo un po' quali sostegni finanziari stanno arrivando e quali sono le modalità per richiederli. È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio. È per te tutta questa città. L'arrivo di un figlio è un momento di grande gioia nella vita di una famiglia, che porta con sé anche nuove responsabilità e impegni non indifferenti sul piano economico. Esigenze che accomunano tutti i genitori, ma che vanno a sommarsi alle difficoltà della crisi e alle complesse dinamiche del mondo del lavoro, andando a pesare maggiormente su alcune situazioni già delicate. È pensata proprio per supportare chi affronta la nascita o l'adozione di un figlio l'iniziativa del bonus bebè, che negli anni ha assunto forme e modalità differenti e che viene riproposta anche per questo 2013. Se in passato consisteva in una somma una tantum erogata alle famiglie, questa volta si concretizza nel sostegno alle spese relative all'asilo nido o alla babysitter, con l'obiettivo di facilitare la conciliazione tra lavoro e maternità. Precisamente, le mamme che tornano al lavoro, rinunciando al congedo di maternità facoltativo, potranno percepire 300 euro al mese per 6 mesi, entro il primo anno di vita del bambino, a patto di dimostrare il pagamento di un asilo o di una babysitter. La richiesta andrà presentata tramite web in corrispondenza di un click day, per il quale deve ancora essere definita una data. La precedenza verrà data tenendo conto di due criteri: l'orario di arrivo della richiesta e l'indicatore ISEE. Come fanno notare alcune associazioni dei consumatori, però, la probabilità di ottenere il bonus non sembra essere altissima. Con 20 milioni di euro stanziati per 3 anni, potranno accedervi solo 3.300 mamme all'anno. E allora eccoci ritrovati in diretta, 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Chiedo subito un commento a Francesco Belletti, presidente del forum delle associazioni familiari, sull'ammontare complessivo che verrà erogato per garantire quello che abbiamo di nuovo definito bonus bebè, perché così ce lo ricordiamo più facilmente. In realtà è un voucher INPS, è una modalità diversa rispetto alle formule che conoscevamo e che venivano erogate negli anni passati. Ci sembrava una cifra davvero significativa, 20 milioni di euro, e poi chiaramente siamo andati a vedere un po' rispetto al numero delle nascite che statisticamente ci possiamo aspettare, e chiaramente le famiglie che ne potranno far richiesta, alla fine si riduce tutto un po' a pochino. E molti Belletti contestano: ma insomma, con quello che costano i nidi o comunque la babysitter, cosa ci vogliamo fare con 300 euro? Beh, sempre meglio che niente. Che dice Belletti? No, ci dobbiamo accontentare dei simboli, purtroppo, per le politiche familiari, nel senso che su 550.000 bambini che nascono ogni anno nel nostro paese, e sono un dato bassissimo rispetto a tutti gli indici sulla natalità, è uno dei problemi del sistema paese, questo della natalità. Immaginare l'accesso di 3.300 persone sembra, diciamo che riconosciamo positivo il principio, cioè l'arrivo di un figlio ha un impatto molto forte sull'equilibrio economico di una famiglia, non ci sono riequilibri fiscali, mette in crisi la conciliazione tra famiglia e lavoro, soprattutto per la donna, e interviene su questo specifico pezzo. Mm-hmm. Certo, bisognerebbe moltiplicarlo per 100, come dire. Allora, ha un po' incuriosito anche la modalità con cui questo bonus quest'anno verrà erogato. I bonus bebè degli anni passati venivano erogati sulla base di una autocertificazione che le famiglie che ne facevano richiesta dovevano presentare. C'è stata poi anche la famosa questione che si era aperta per la prima tranche, quella del 2006, che molte famiglie hanno dovuto restituire perché avevano denunciato appunto un reddito netto invece di quello lordo, se non mi ricordo male, questi famosi 50.000 euro per i quali poi c'era stata la necessità di fare marcia indietro. Adesso non ritorneremo su quell'operazione passata, in questo caso invece si potrà fare richiesta di questo bonus collegandosi probabilmente di mattina presto davanti ad un computer, perché si procederà forse in un'unica giornata. Dino Giornetti del CAF CISL, stavo già chiamando l'altro ospite che avevamo previsto inizialmente, poi racconto magari anche questo retroscena ai nostri ascoltatori. Giornetti, un click day, questo secondo voi complicherà un po' le procedure per richiedere il bonus in questo caso? Sì, come correttamente descritto nella scheda, è anticipato la prestazione, non si sono ancora definite né le modalità e né il turno in cui sarà vincolata alla richiesta della domanda, soprattutto correttamente come diceva la scheda, a parità di valore economico, quindi di ricchezza dei nuclei, beneficeranno i soggetti che hanno presentato prima la domanda in via telematica. La domanda sarà esclusiva, quindi è già stato definito dal decreto che l'invio possa essere esclusivamente in modalità informatica, e quindi aspettiamo adesso informazioni da INPS per quanto riguarda i tempi, i termini e le modalità con cui inviare la richiesta informata. Ecco, una cosa è però molto chiara, che l'erogazione di questo contributo sarà erogato a condizione che naturalmente il bimbo venga mandato appunto al nido o che comunque venga tenuto da una babysitter. Qua si aprirà tutta un'altra discussione sul fatto che naturalmente la babysitter deve essere in regola, per cui immagino il compenso, Giornetti, deve essere assolutamente certificato, altrimenti addio. Infatti, si può parlare di una prestazione più di un contributo in denaro, in quanto verranno erogati, questa la forma è di 300 euro per 6 mensilità, e verranno erogati tramite, se si fruisce del babysitting, attraverso i voucher IMSS per poter pagare direttamente la babysitter, altrimenti di prestazioni collegate correttamente all'infanzia, quindi all'asilo nido, pagate in misura diretta. Mm-hmm. Quindi non si potranno utilizzare questi soldi per altre prestazioni. Certo. Allora, volevo far fare un altro commento a Francesco Belletti. C'è un ascoltatore che adesso non so se riusciremo a fare intervenire, ma in ogni caso posso già anticipare io il commento che voleva fare Luca da Ferrara, che dice è un intervento di natura puramente elettorale in questo momento, perché naturalmente un incentivo di questo tipo non ripaga lo sforzo di dover ritornare a lavorare da parte della mamma. In realtà questo provvedimento era contenuto dalla riforma del lavoro del ministro Fornero, per cui diciamo che proprio di sapore elettorale non ha nulla, questo mi sento di poterlo dire. Belletti, che però dice? Condivido anch'io. Il ministro Fornero ha anche dichiarato spesso di aver fatto meno di quello che voleva fare proprio sul tema della conciliazione famiglia-lavoro, e questa, ripeto, però purtroppo l'entità della misura dice di quanto peso ci sia dentro il pianeta politiche del lavoro rispetto al tema famiglia e al tema conciliazione tra compiti di cura e esperienza lavorativa. C'è una arretratezza del sistema industriale, del sistema economico e della politica italiana che è sconvolgente rispetto agli altri paesi europei. Mm-hmm. E quindi questo è giusto un timido segnale nella direzione giusta. Certo, anche perché comunque dobbiamo ricordare che questa erogazione si accompagna anche all'aumento delle detrazioni appunto di cui possono beneficiare le famiglie con figli a carico. La rosa è piuttosto ampia, ma soprattutto sono stati aumentati notevolmente, sono state aumentate appunto le detrazioni, Belletti. Questa mi sembra una buona notizia, perché effettivamente siamo passati per esempio dai 900 euro riconosciuti nel 2012 per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 3 anni a 1.220 euro, non è poco? Sì. questo è un correttivo della prima versione della legge di stabilità, che prima non aveva niente di questo, poi con una serie di confronti anche tra le associazioni familiari, il ministero di Riccardi, insomma, si è ottenuto questo passaggio. C'è tra l'altro un sovradimensionamento di questo aumento sia per i figli disabili che per i figli 0-3 anni. Sono misure che vanno nella direzione giusta, perché forse una delle questioni che mancano anche nel dibattito politico oggi è proprio l'emergenza demografica, cioè non si può parlare solo della criticità dei conti della pensione, bisogna proprio parlare anche al rilancio del saldo demografico, sostenere i giovani, sostenere le giovani coppie, sostenere le nuove generazioni, favorire la nascita dei bambini. E quindi, insomma, tra simboli come il sostegno del bonus bebè e queste detrazioni che hanno una platea più ampia e che avranno anche una consistenza nell'ordine dei 400 milioni all'anno, se non ricordo male, e quindi cominciamo a parlare di misure che tendono a incidere sull'agenda del paese. E anche infatti speriamo, almeno quindi, in modo tale che questi 550 mila bambini che nascono ogni anno possano diventare una cifra un po' più significativa. Allora, tra l'altro, ci sono molti ascoltatori che, ritornando sul voucher IMSS, chiamiamolo per farlo meglio comprendere, ricordare il bonus bebè versione 2013, in molti dicono, siccome questo viene erogato naturalmente al termine del congedo obbligatorio per maternità, se una mamma decide di lasciare il suo bimbo al nido viene naturalmente erogato solamente dal quarto mese di vita, immagino, giornetti, se non ho capito male, no? Se tutto funziona secondo come dovrebbe funzionare, il voucher viene erogato entro i 15 giorni successivi alla graduatoria, quindi all'invio della domanda telematica. Si prevede una data consentendo anche alle madri che non hanno ancora avuto il parto di poter accedere alla domanda telematica in un periodo che dovrebbe essere dei 4 mesi precedenti alla data prevista per il parto, in maniera tale che possano fluire una popolazione più bassa. Ecco perché ho voluto far rispiegare questo, perché molti dicono: ma chi è che lascia un bebè all'asilo nido nel primo anno di vita? Guardate che ci sono tante mamme che devono tornare al lavoro e non è che tutte quante possono permettersi il congedo volontario, Belletti, per cui in realtà non è poi una platea così bassa quella di riferimento, tant'è vero che questo bonus si calcola che verrà bruciato abbastanza rapidamente. Sì. Forse questa è una criticità di questo provvedimento, cioè sostiene solamente uno dei possibili percorsi della maternità. Forse bisogna interrogarci anche su come sostenere la scelta di restare a casa fino all'anno di vita, perché c'è un impoverimento forte di una donna che sospende l'attività lavorativa, perché poi lo stipendio percepito diminuisce rapidamente nei mesi successivi. Però, diciamo, lo ritengo un buon segnale l'introduzione di questo bonus bebè. Forse ci vogliono politiche più ampie anche per le altre, per la libertà di scelta delle donne. Guardi, vedremo dopo il 24 febbraio che compagine governativa emergerà e quanto interesse ci sarà su questi temi, lo scopriremo abbastanza rapidamente. Allora, Giornetti, volevo ritornare con lei perché in molti stanno sollevando tutte le possibili criticità legate al click day, che appunto non è evidentemente una prassi con la quale siamo abituati, però probabilmente appunto per chi vorrà far richiesta, siccome chiaramente poi conterà anche l'ordine di arrivo delle domande, bisognerà che nel momento in cui questa giornata scatterà, poi magari la seguiremo direttamente, faremo una puntata di Salvadanaio magari il giorno prima, quando conosceremo appunto la data, però in molti dicono: ma insomma, se io non ho internet come posso fare a fare questo lavoro qualora fossi interessato a questo bonus? Intanto i CAF credo che si mettano a disposizione, o no? Sicuramente il sistema dei CAF, anche se non è ancora stato definito il sistema di accreditamento, però sicuramente il sistema dei CAF, così viene per altre prestazioni a livello erogato a livello territoriale fino a livello nazionale, assisterà i cittadini anche in questo, immagino anche l'associazione a difesa delle famiglie, quindi sicuramente per i soggetti che non riusciranno in maniera autonoma a effettuare la domanda in via telematica ci sarà un'ampia assistenza, come sempre accaduto. Benissimo. Da parte di tutti i centri di assistenza fiscale. Allora, intanto ci fermiamo perché abbiamo la prima pausa e poi cominciamo a dar voce agli ascoltatori, ai tantissimi commenti che stanno arrivando su questo argomento. Per gli ascoltatori che vogliono sapere naturalmente come si fa ad ottenere questo bonus bebè, ancora richieste di chiarimenti sulle detrazioni IRPEF 2013 per i figli a carico, ci sono tante domande sulle cosiddette technicality anche naturalmente per ottenere questi finanziamenti, questi contributi, e allora vi diamo spazio tra pochissimo. Papà, Wendy e io dobbiamo fare un piccolo annuncio. Aspettiamo un bambino. Oh mio Dio! Non è grandioso? Anche noi! Cosa? Stai scherzando, vero? Sangue di Bacco! Allora congratulazioni a tutti noi! Oh, cacchio, io non sapevo che ci stavate provando anche voi. No. Veramente no. No, figliolo. Nessun colpo a salvo in questa pistola. Boom! È per te ogni cosa che c'è. E abbiamo scelto anche stamattina un piccolo brano tratto da un film che è uscito l'anno scorso, Cosa aspettarsi quando si aspetta, che per la verità è un film che è un adattamento cinematografico dell'omonima guida bestseller scritta appunto da Heidi Markoff e Sharon Mazel negli Stati Uniti. Appunto ci si svelano in questo volume tutte quelle che sono le cose completamente inattese quando appunto ci si ritrova ad affrontare una gravidanza. Sicuramente il tema economico che è relativo alla fase di crescita dei figli una volta che questi sono nati è forse un aspetto al quale si pensa in un secondo momento, quando effettivamente l'impegno comincia a diventare importante. Una fase particolarmente delicata è quella della scelta del ritornare al lavoro da parte della mamma. Molte mamme utilizzano naturalmente i periodi di maternità facoltativa più a lungo possibile, ma questo non sempre è naturalmente una scelta facile, per cui da qualche tempo appunto si cerca anche di aiutare le famiglie in difficoltà, che comunque a prescindere poi anche dalla condizione reddituale, siccome cambia radicalmente anche il bilancio economico con l'arrivo di un bambino, vanno aiutate più o meno tutte secondo la nostra opinione, anche proprio per incentivare la famiglia affinché questa cresca. Allora c'è una nuova versione del bonus bebè, edizione 2013, che è stata introdotta con la riforma del mercato del lavoro del ministro Fornero dello scorso anno, del giugno dello scorso anno. Si tratta del voucher INPS, per poterlo richiedere €300 al mese per mandare il bambino al nido o per pagare una babysitter, per richiedere i quali appunto ci sarà fra qualche settimana un click day, cioè bisognerà mettersi davanti al computer e formulare direttamente la richiesta, perché questi soldi verranno erogati a chi arriva per primo, ma naturalmente Giornetti, anche a chi ha determinate condizioni economico-finanziarie, perché anche l'ISEE sarà appunto condizionante, no, per ottenere il contributo. Assolutamente, come avete già fatto rilevare, il limite economico dei 20 milioni d'euro l'anno stabilito porterà a una ferma posizione nel rilasciare il beneficio solo ad alcune famiglie, in considerazione soprattutto della condizione economica del nucleo, che attualmente è il nucleo familiare, che viene data dall'indicatore della situazione economica equivalente, cosiddetto ISEE. E nella predisposizione dell'ISE, una volta che verrà effettuata la domanda, verranno accettate in graduatoria, quindi verrà erogato il servizio a coloro che hanno l'ISE più basso e a parità di ISE a coloro che hanno presentato la domanda in via telematica in maniera più veloce, quindi le prime domande arrivate a parità di ISE avranno diritto al beneficio. Esatto, varrà il principio del chi tardi arriva male alloggia. Ecco, è importante dire, come avevamo fatto rilevare prima, nella riforma Fornero, quindi anche nello spirito nuovo di erogazione di questo bonus, di questo beneficio, che è in alternativa erogazione al congedo parentale, quindi si può fruire del bonus in alternativa al congedo parentale. Esatto. Alla fruizione del congedo. Ecco, tra l'altro, Giornetti, magari la sua riflessione sull'ISE, lo dico alla francese, ha fatto ricordare anche che lo scorso anno per molte settimane si è discussa della possibilità di riformare, no, il calcolo di questo indicatore. Mi sembra che non se ne sia fatto più nulla, quindi ancora abbiamo i criteri noti. Assolutamente, i criteri rimarranno per questi mesi ancora i criteri dell'ISE, che attualmente nella norma attuale, in quanto in questi ultimi sei mesi, dopo le indicazioni sul rinnovare l'ISE, quindi andare a modificare l'ISE, sono stati sei mesi di lavoro molto importanti, la Corte Costituzionale ha rilevato un vizio di forma e ha rallentato l'iter amministrativo affinché l'entrata in vigore del decreto potesse avvenire entro dicembre, quindi ci troviamo di fronte all'ISE attuale e le previsioni saranno quelle che della normativa attuale, quindi pertanto aspetteremo il decreto in un periodo successivo. Sicuramente i tempi del decreto si sono allungati. Esatto, secondo lei, tra l'altro, adesso è chiaro che le chiedo una previsione del tutto artificiosa, perché ci sono molti ascoltatori. Adesso stavo leggendo appunto un sms che ci è arrivato poco fa di una mamma o un papà, Marco, quindi un papà. Se il click day sarà a marzo, ci dice, la nascita è prevista per maggio, dove la maternità facoltativa al 30% partirebbe dal 2014, devo fare richiesta questo o il prossimo anno per il bonus bebè? Intanto qui abbiamo un'erogazione, no, per il prossimo anno forse? Parla di periodo subito. Parla di 4 mesi, sì, però, indicano il decreto che l'INPS darà indicazioni chiare sulle modalità e i tempi. Sul decreto è indicato i 4 mesi antecedenti al parto e gli 11 mesi successivi, quindi come data vanno a valutare quella del parto, quindi non di richiesta di altra prestazione. Sicuramente, come dicevamo, il requisito è rinunciare al congedo facoltativo. Benissimo, bene, prendiamo atto. Allora, andiamo adesso alle domande degli ascoltatori. La considerazione di Luca da Ferrara l'avevo letta, ma gliela facciamo formulare volentieri. Luca, buongiorno, benvenuto, buon anno. Buongiorno, auguri anche a voi. Ci dica. Ma infatti sì, come dicevo prima, la vedo un po' come una mossa un po' politica, è anche vero, come mi avete detto voi, invece, che politica non è più di tanto, in quanto era stata già fatta dalla Fornero. La mia considerazione era questa: 300 euro secondo me sono pochi, ho una storia con figli che sono nati in questi anni e io e mia moglie, che siamo due impiegati normalissimi, con dei stipendi proprio normalissimi, in una città come Ferrara, un asilo nido costa molto di più di 300 euro. Sì. Con appunto un indicatore ISE, come dicevo, uso il termine ancora, normalissimo. Più che altro, forse, più che dello Stato dare i soldi in questa maniera, potrebbero essere i comuni a fare qualche cosa e a proporre allo stesso modo magari i primi 6 mesi di asilo nido alle mamme che appunto hanno appena partorito e devono tornare a lavorare. Tra l'altro, Luca, guardi, commentare l'ovvio, lei ha ragione, che cosa le devo dire, 300 euro effettivamente fanno ridere, però visto che ci sono, magari a qualcuno fanno anche molto comodo, però è chiaro, l'abbiamo ribadito più volte per tutto l'inizio della trasmissione, per le politiche, per la famiglia non c'è quasi mai nulla, e qua questo stamattina lo scriveva Massimo Gramellini sulla Stampa nel suo Buongiorno, c'è tutta una lista di temi che manca dalla campagna elettorale di tutti i candidati, che è una lista infinita, però Salvadanaio non è il contenitore del commento politico, per cui lo lasciamo, però prendiamo atto delle sollecitazioni delle famiglie che arrivano anche da questi microfoni, perché noi a loro diamo voce. Detto questo, Belletti ha detto una cosa molto interessante, Luca, perché molto spesso ci dimentichiamo, questo lo dicevo anche con Giornetti prima, microfoni spenti, che c'è tutto l'ambito dei sostegni che possono dare gli enti locali, dei quali spesso ci dimentichiamo, no? Stiamo così un po' appesi anche alle decisioni di carattere generale che può prendere lo Stato, che può prendere un governo, qualche volta ci dimentichiamo di andare a bussare alla porta del sindaco, che magari ha dei piccoli stanziamenti per le famiglie del territorio, e però non ci si pensa di andare a far richiesta. Credo che non sia stagione, i comuni sono stati ampiamente piallati e hanno, è solo adesso con l'IMU di fatto cominciano ad avere qualche capacità, e tutti i fondi delle politiche sociali che erano anche trasferimenti sono stati esauriti. Moltissimi comuni hanno tentato di fare politiche di questo tipo, ma manca, credo proprio che si debba fare proprio il contrario invece, bisogna che le politiche di sostegno alla maternità siano politiche nazionali, come dire, di diritti di cittadinanza, di sostegno universale, perché i costi della nascita di un nuovo figlio non sono in nessun modo sostenuto dalle politiche generaliste, perché per i comuni questo è un peso sostenibile, già hanno il carico gestionale dei servizi di cura della prima infanzia che sono molto costosi, quindi un asilo nido diciamo mette in grande criticità un bilancio comunale, soprattutto se il comune non è molto grande, quindi la linea del bonus bebè a livello nazionale è invece una delle priorità, dei must che il nostro paese dovrebbe cominciare a darsi. No, tra l'altro stavo pensando che sempre a proposito degli interventi che fanno gli enti locali, avevamo visto appunto che il bonus bebè, per esempio, che era stato previsto nella versione 2012, aveva una diretta relazione con i bilanci delle regioni, perché questo era accessibile dalle regioni appunto italiane per tutti coloro che avessero avuto un figlio, che avessero determinati requisiti, ma ogni regione praticamente prevedeva un ISEE diverso, e questo appunto tanto a dare dimostrazione del fatto che gli enti locali per conto loro possono far poco, quelli che stanno un po' meglio economicamente possono essere un po' più generosi, sì. Quelli che invece, ecco. Guardi, una parola sull'ISEE, devo dirla, perché abbiamo partecipato molto al dibattito di riforma dell'ISEE. Per noi l'ISEE attuale è insoddisfacente perché penalizza le famiglie numerose, è troppo avaro al crescere del numero dei figli, e la riforma aveva la stessa difficoltà. Quindi io credo che anche ragionando sull'ISEE si debba anche essere consapevoli che oggi l'ISEE penalizza la famiglia come equità rispetto al numero di figli, quindi una famiglia con tre figli viene penalizzata rispetto a una famiglia con un figlio solo. Detto questo, è assolutamente urgente per il nostro paese riqualificare l'ISEE come misura universalistica nazionale, proprio per evitare la fortuna di nascere in un comune che lo usa in un certo modo e la sfortuna di nascere in un altro comune. Quindi è uno strumento prezioso, ma spero che si riparta con un nuovo dibattito quando con la nuova legislatura si discuterà ancora dell'ISEE. Belletti, chiedo ancora un attimo la sua collaborazione per rispondere ad un ascoltatore, perché lei è il nostro uomo delle detrazioni. Un ascoltatore ci scrive: ho 4 figli over 3 anni a carico, quali detrazioni, quanto di più in busta paga a fine mese? Dipende, immagino, anche dal reddito complessivo che questa persona percepisce, però ecco, magari facendo un esempio pratico, in soldoni, diciamo, glielo possiamo quantificare? Ottiene 150 euro aggiuntive di detrazioni per ogni figlio, per cui prima erano, per sopra i 3 anni, prima erano 800, adesso sono 950 le detrazioni per ciascun figlio. Con 4 figli ottiene 150 in più. E inoltre però è sottoposta al reddito, quindi al crescere del reddito questa cifra diminuisce gradualmente, certo, come tutte le altre detrazioni ovviamente fino all'annullamento quindi, totale. Quindi diciamo il beneficio aggiuntivo con un reddito basso potrebbe essere di 600 euro. Figli, queste detrazioni si possono riconoscere per figli adottivi, per figli naturali riconosciuti, per figli affidati o affiliati. La detrazione è riconosciuta a prescindere dalla convivenza con i genitori, Belletti? Sì, ma questo è un po' in linea con quello che sta succedendo anche con l'approvazione recente di una legge che ha parificato definitivamente i diritti dei figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio. Il tema della famiglia e del matrimonio al forum delle associazioni familiari sta molto a cuore, noi contiamo molto sull'articolo 29 della Costituzione, però i diritti dei bambini vanno custoditi in quanto bambini, quindi a prescindere dallo stato civile dei genitori. Ovvio. Condividiamo totalmente. È un dato tranquillo, insomma. Luciano da Pistoia, buongiorno. Buongiorno e buon anno. Altrettanto, Luciano, ci dica. Allora, la mia domanda è questa: il bonus bebè è applicabile anche ai titolari di partita IVA o ai liberi professionisti o solo per i dipendenti? Allora, una mamma che avesse una partita IVA, si prende i 3 mesi di maternità obbligatoria, poi vuole tornare al lavoro. Giornetti. Sì, ci sono alcune limitazioni. In questo caso le lavoratrici part-time usufruiranno del beneficio in misura proporzionale, poi vedremo tramite IMSS qual è la riproporzione per il tipo di lavoro rispetto alla quota del beneficio, mentre per le lavoratrici iscritte alla gestione separata si dovrà fruire del beneficio per 3 mesi, quindi per 3 mensilità, ovvero per 900 euro di beneficio. Allora, speriamo di essere stati chiari per Luciano da Pistoia, però anche lì effettivamente un'altra piccola mancanza forse della normativa. Belletti, che ne pensa? Perché anche queste mamme forse a maggior ragione avrebbero bisogno di un sostegno, perché se stanno lontane dal lavoro... Aggiungono rischio a rischio nella posizione di libero professionale. È triste questa nostra incapacità di uscire da un vecchio modello di protezione del lavoro. Non siamo capaci di fare i conti con un mercato del lavoro che è diventato molto flessibile. Abbiamo ancora una vetera rappresentanza da lavoro a tempo indeterminato. Anche l'idea che i contributi vadano parametrati al numero di ore di tempo parziale è un cattivo segnale di vecchio modello. Ripeto, per me questo bonus bebè è comunque una buona notizia, perché risponde ad alcune traiettorie di vita, però si deve far meglio, si deve avere l'obiettivo universalistico. Ogni bambino cittadino che nasce nel nostro paese va riconosciuto come un investimento del sistema paese e non vanno scaricati i suoi costi sulla coppia che lo accoglie. Guardi, non vedo l'ora di vedere come funzionerà questo click day effettivamente, quante mamme ne faranno richiesta, perché saranno mamme che con certezza appunto torneranno al lavoro dopo il terzo mese di vita delle bambine, e questo sarà anche un altro spaccato interessante da commentare. 800 24 00 24, il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi, interagire con noi sul tema di questa mattina, oltre al bonus bebè, le detrazioni per i figli a carico, un po' tutto il tema delle politiche di sostegno alla famiglia. A tra poco. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na. Me la stavo ascoltando tutta volentieri, anche se Jovanotti non è uno dei miei cantanti preferiti, però questa canzone è molto molto tenera, una grande sensibilità dedicata naturalmente ai papà, alle mamme e a questo pensiero molto delicato nei confronti dei figli. Allora, Franco su Twitter ci scrive: il bonus non idoneo, meglio stare a casa e mangiare pane e cipolla, almeno ti godi il bimbo. Franco, sì, certo, ognuno poi la pensa come meglio crede, non so se uno stile di vita così morigerato poi può far vivere anche in totale serenità l'esperienza della maternità o della paternità, magari un po' frustrante anche quello, forse è meglio avere una mamma contenta che ritorna al lavoro e riporta a casa un reddito come dire completo, piuttosto che invece sacrificarsi così tanto. Poi sicuramente ci sono molte persone che la pensano come lei, che vogliono godere appieno al 100% della paternità o della maternità. Andiamo a Michele da Foggia all'800 24 00 24. Michele, buongiorno. Buongiorno, grazie innanzitutto per avermi preso in considerazione. Ci mancherebbe, Michele, volentieri. Ci dica. Allora, volevo sapere, la mia domanda era questa. Già che io ho i figli maggiorenni, comunque disoccupati, questa detrazione va anche per i figli maggiorenni disoccupati? Ovviamente non parliamo del bonus in questo caso, ma delle detrazioni IRPEF 2013. Mi pare di sì, Belletti. Il limite sia i 26 anni. Ecco, come la detrazione per l'IMU. Quanti anni hanno i suoi figli, Michele? Come? 20 e 18. Quindi in questo caso sì. Sì. Belletti. Credo proprio di sì. Per cui rientra. Comunque sono... Michele, purtroppo non la sentiamo bene, o ha un cellulare oppure ha un viva voce che non ci permette un collegamento ottimale. Magari vediamo se riusciamo a recuperarlo, lo chiedo al mio assistente Marco Lombardo, che ringrazio sempre per tutto l'impegno che mette in queste trasmissioni, gestisce anche come un pazzo i social network, situazione della quale io invece mi disinteresso un po' perché non ho tempo. Andiamo ad Oscar da Milano. Oscar, buongiorno. Buongiorno, complimenti per il programma. Grazie Oscar. Quindi io, la mia domanda è rispetto al bonus bebè. Io sono un lavoratore con carta di soggiorno, qua sono peruviano, quindi sì. A novembre 2009 ho portato mia moglie per ricongiungimento familiare e a febbraio dell'anno scorso abbiamo avuto una figlia. Mm. E poi c'è un'altra figlia di 11 anni che è anche qua. Mm. La mia domanda è perché non ci hanno fatto fare il bonus bebè? Perché nel comune ci hanno detto che mia moglie doveva avere 3 anni di residenza in Italia, quindi... Probabilmente ogni comune magari chiede dei requisiti diversi, Oscar. Quindi le hanno detto di no per l'anno scorso? Sì, a metà di l'anno, dell'anno scorso. Quindi noi siamo in tempo di poter fare un'altra richiesta, dato che no. Allora, intanto per quello di quest'anno non credo, perché la sua bambina ha già più di un anno, per cui giornetti. Intanto non certo 11 mesi ha. Sì, non è nata il 3 febbraio. Ah sì, ha ragione, siamo a gennaio, stamattina sono ubriaca. Giornetti, è il problema che qua se è il click day, però intanto diciamo la versione di quest'anno non lo so. Sì, no, intanto la richiesta fatta al comune era relativa all'assegno di maternità erogato dal comune, che viene erogato per le madri che non hanno copertura IMSS, tra virgolette, quindi non hanno l'indennità di maternità. Le non lavoratrici, dove per aver diritto bisogna essere cittadino italiano comunitario o extracomunitario in possesso di carta di soggiorno di lunga durata. Sentivo parlare di una richiesta, una risposta da parte del comune relativamente al breve periodo relativamente in Italia della madre. Quindi lì parlavamo di un'altra indennità chiamata assegno di maternità, sono già 10 anni che viene erogata dai comuni, sempre tramite l'INPS con l'assistenza dei CAF, tramite l'ISE, al quale si può aver diritto se non si ha diritto all'indennità di maternità dall'INPS, mentre il bonus bebè pone come requisito la lavoratrice madre, ovvero colei che comunque ha diritto dell'indennità di maternità INPS e che può aver fruire al posto del congedo parentale di questo ulteriore beneficio. Ecco, ma avendo già 11 mesi la bambina può comunque adesso fare richiesta di nuovo dopo un iniziale respingimento? Adesso non ho sentito bene, ma non ho capito se la madre è lavoratrice, che è, sembra elemento indispensabile per richiederlo. Forse. E da quello che leggiamo dal decreto, vedremo le istruzioni dall'INPS, in ogni caso sono 4 mesi dalla nascita. Quindi. No, ma mi riferivo all'assegno di maternità riconosciuto. Ah, l'assegno di maternità può essere chiesto 6 mesi dalla data del parto. Ecco, quindi in ogni caso è escluso teoricamente anche da questo. Purtroppo. Allora, abbiamo ripescato Michele da Foggia, che ci raccontava quanti anni avessero i suoi figli. 20, Michele? Sì, buongiorno di nuovo. Sì. Allora, stavo dicendo, uno 20 anni, l'altro 18. Ecco, quindi diciamo che per quello che riguarda il requisito anagrafico ci siamo. Va oltre i 3 anni. Quindi. Sì, sì, no, Belletti. No, ma le detrazioni, diciamo, infatti. L'incremento delle detrazioni ha anche il vantaggio di rispettare le regole precedenti, quindi non cambia niente rispetto all'attuale quadro e quindi i figli a carico sotto i 26 anni, da quel che mi risulta, che quindi dovrebbero essere dentro tranquillamente, non è per i figli minori questa, è per i figli a carico. Certo, non abbiamo detto anche un'altra cosa importante, non mi ricordo se è stata detta nella scheda, in ogni caso le nuove detrazioni valgono già a partire dalla busta paga di gennaio di quest'anno, vero Belletti? Sì, sì. Mi sembra proprio una misura già operativa per il 2013. Certo. E siccome è automatica, già come dire, le aziende e lo Stato e l'INPS hanno già tutto quanto, tutta la documentazione, tutta la nostra condizione reddituale e familiare, il lavoratore immagino non debba far nulla per comunicare altre notizie, per cui scattano in automatico. Sì, sì, sì, sì. Perfetto. Allora, quali altre domande possiamo ascoltare? Quella di Egidio da Pesaro. Egidio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. La mia domanda è questa. Mia moglie lavora in un hotel stagionale, praticamente è chiuso adesso, l'altro ieri, e riaprirà nel mese di marzo. E abbiamo 2 bambine, di cui una di 8 mesi, che farà praticamente compita l'anno il 26 aprile. Quindi significherà che a marzo ed aprile, praticamente, non so se possiamo ricevere per marzo ed aprile solo il bonus bebè. Qua abbiamo una abbiamo una casistica talmente vasta che noi avevamo pensato all'inizio, così un po' come sempre superficialmente, a me capita di fare, no? Magari una questione la dobbiamo spiegare in 4 cose, la diciamo, funziona così, non c'è molto da dire. Poi c'è invece una platea talmente eterogenea di situazioni, ognuna delle quali va affrontata appunto individualmente. Io spero di poterle dare una risposta. Adesso chiaramente poi, se non siamo a conoscenza, non riusciamo, né con Dino Giornetti né con Francesco Belletti, ci documenteremo anche su questo caso particolare. Giornetti, io ci provo con lei. Allora, Egidio, sua moglie è una lavoratrice stagionale, riprende a lavorare a marzo, il suo bambino, la bimba è nata nell'aprile dello scorso anno. Secondo lei che cosa può fare, Egidio? Giornetti, ci sente? Bisognerebbe calcolare, innanzitutto valutare l'attività di lavoro, quindi il congedo di maternità, perché pone la norma 11 mesi alla scadenza del congedo. Quindi bisogna capire, essendo un unico giorno il click day, quali saranno le scelte delle date per poter far accedere questo tipo di persone. Infatti, sentiamo Belletti. Quindi, che ne pensa di questo stesso caso. Mi arrendo alle competenze dei CAF, ma credo che sia un po' il bello e la difficoltà del fare radio di servizio, cioè un conto è commentare i criteri generali e poi trovarsi un po' appesi di fronte a questi casi. Bisogna rimandare al lavoro concreto dei CAF di territorio. Esatto, no, ma più che altro poi aspettiamo anche di vedere il click day, come funzionerà, magari queste situazioni che sono assolutamente limite verranno definite. Egidio, abbia ancora un po' di pazienza, anche del fatto appunto che non riusciamo a dare delle risposte così precise su casi assolutamente particolari. Tiziano da Piacenza. Buongiorno a tutti voi. Una domanda, volevo sapere, visto che fino all'anno scorso la figlia della mia convivente non potevo metterla a 13 anni, non potevo inserirla perché non si è sposata, appunto conviviamo, volevo sapere se da quest'anno posso inserirla nelle dichiarazioni dei redditi. Come figlia a carico. Tiziano, sì. La ringrazio. Belletti, cosa può fare Tiziano? può fare questo trasferimento? Non saprei dirlo, perché non so se la legge che ha riconosciuto questa parificazione tra figli naturali e figli fuori dal matrimonio si abbia già, come dire, decreti attuativi capaci di verificarne le conseguenze fiscali, e quindi magari, non so. Tiziano, ci scriva magari una mail e proveremo ad individuare anche per lei appunto la soluzione giusta da adottare in questo caso. Comunque veramente situazioni complicate. Dino Giornetti, volevo ritornare da lei per capire se sul bonus bebè, voucher IMSS versione 2013, abbiamo detto tutto, ci siamo dimenticati appunto degli aspetti, perché qua poi ci siamo focalizzati sui casi singoli degli ascoltatori. Abbiamo già detto... Attendiamo la data del click day, che è quella domanda per via informatica che già in passato abbiamo conosciuto, perché viene utilizzata per esempio per la regolarizzazione di colf e badanti e quant'altro. Abbiamo dimenticato degli aspetti da ricordare importanti? No, abbiamo detto praticamente tutto quello che si poteva dedurre dal decreto. Adesso aspettiamo le informazioni INPS per tutelare tutti i cittadini sul territorio, assisterli per le diverse situazioni e casistiche, quindi come per la regolarizzazione di colf e badanti o le altre regolarizzazioni, assisteremo tutti i cittadini affinché venga erogato il beneficio a chi ne ha diritto. Quindi, certo. E niente, aspettiamo. No, tra l'altro, chissà, mettendosi davanti al computer quel giorno, quante domande farà ipoteticamente la prima schermata che vedremo? Appunto, intanto chiaramente cercheranno di capire qual è la data di nascita del bambino, qual è l'ISE. Quante informazioni teoricamente verranno richieste? Sarà secondo lei una compilazione complessa? Non dovrebbe essere complessa, verrà richiesto il requisito della rinuncia al congedo, verrà richiesto il valore ISE, anche se poi è lo stesso istituto che ne contiene la banca dati, e verranno richieste la modalità di fruizione, quindi se si desidera fruire dei servizi per l'asilo nido, quindi dedicate all'infanzia, o il voucher per babysitting. Queste sono informazioni che sul decreto emergono nel modulo di richiesta, poi andremo a valutare nel dettaglio che l'INPS deciderà di inserire. Benissimo, grazie ad entrambi per essere stati con noi, per esservi cimentati anche in condizioni così difficili, domande impegnative. Un'ascoltatrice, Liliana, ci scrive: 300 euro non sono pochi, Deborah, magari li avessi avuti mia mamma le 47, beh, avrebbero avuto un valore molto diverso. Comunque a tutti, buona giornata, a domani.